quel guerriero fossi, se il mio sogno si avverasse. Un esercito di prodi da me guidato, della vittoria, il plauso di menti tutta. Dirti per te ho pugnato, per te ho vinto. Darti le dolci brezze del patrio suolo.